Signori, buongiorno. Narrazione 2.0, nel futuro del racconto, i nuovi italiani nell'era digitale. Un titolo giustamente altisonante perché parliamo del racconto. Il racconto non è altro che un involucro all'interno del quale l'uomo è abituato a mettere una storia, un insegnamento che vuole trasmettere e tramandare, tralasciare a qualcun altro nel tempo, custodire, diciamo così. Ed è una cosa che l'uomo ha fatto da sempre nel corso della sua vita, fa parte della sua natura. L'uomo è una delle peculiarità del nostro essere umano. E quindi questo anche nel corso del tempo ha avuto un'evoluzione notevole. Siamo passati dai muri, foglie, papiri, geroglifici, fino alla stampa commerciale, i caratteri mobili, che ci hanno permesso di industrializzare il processo di stampa, di scrittura, e quindi anche il racconto è diventato qualcosa che ha ancora più ampio respiro. Alla fine noi quello che abbiamo oggi sotto mano sono i racconti tramandati, che quindi sono forse una piccola parte, quella che più ha colpito, quella che più è stata riconosciuta, in cui più le persone si riconosci sono riconosciute e l'hanno custodita e tramandata. E può essere solo una piccola parte di quello che è stato scritto e raccontato nel corso dei tempi dall'uomo. Però comunque è importante, il racconto è testimonianza, il racconto è ispirazione, e questo è fondamentale tenerlo sempre presente. Quello che è cambiato è l'engagement dei lettori, il fatto che comunque adesso il lettore è più consapevole, ha molto più accesso, per fortuna, ai racconti, ha molto più possibilità di informarsi, di confrontare e bisogno di un ruolo nuovo per essere stuzzicato anche nella sua attenzione, quindi continuare a essere coinvolto. E questo è l'engagement che noi cerchiamo continuamente col lettore. Quello che ho avuto in mente tempo fa, avevo questo libro sotto mano, l'ho visto, in quanto non solo nella sua potenza di involucro di racconto, ma proprio libro fisico come oggetto. Ho detto, questo qui puoi sfogliarlo in avanti, indietro, ti permette una scelta, quindi di per sé è già un controller, è già un qualcosa di interattivo. Come sarebbe se il libro riuscisse a interpretare la mia scelta tra andare avanti e andare indietro? In maniera molto semplice, con questo sistema molto per noi naturale ormai. Qui nasce Swipebook, l'esperienza di una piattaforma di racconti interattivi, importantissima perché comunque permette la condivisione con la massima accessibilità di racconti interattivi e anche non interattivi, come vedremo dopo. Ogni Swipebook è un racconto, ogni Swipebook è come un libro che sta su questa piattaforma swipebook.com e può essere visitato senza fruito senza nessuna necessità particolare, quindi è stata una piattaforma che ho creato da zero per essere quanto più accessibile possibile. In Swipebook noi abbiamo una possibilità nuova, gli elementi multimediali, sfruttare gli elementi multimediali come frammenti, come sfumature del nostro racconto. Possiamo mettere immagini, suoni, musiche, tutto quello che è un libro testuale non permette, non lo possiamo integrare. E questa è una grande opportunità. Una grande opportunità anche a livello autoriale. Il fatto di coinvolgere un team di persone che trattano tutti questi aspetti rivoluziona la maniera in cui noi andiamo a confezionare il racconto 2.0, appunto. Il racconto diventa 2.0 quando io non solo ho lo strumento, ho l'involucro, ma il mio racconto è interagibile. Swipebook è una piattaforma che identifica e individua le scelte del lettore. E quindi questo vuol dire poterlo premiare in alcuni casi, potergli offrire un'esperienza ancora più personalizzata. Ed è molto intrigante da un punto di vista di ritorno, di engagement, di ritorno dell'attenzione. Ritorno nel castello è stato il primo Swipebook, quello che ho scritto come numero zero, come prova, ha dato diversi risultati, comunque è stato molto apprezzato, molto condiviso. Abbiamo visto anche come la pandemia purtroppo ha aiutato, da questo punto di vista purtroppo, la diffusione di questi veicoli virtuali, diciamo, di questi involucri virtuali per i racconti. Ed è stato affascinante vedere quante persone sono avvicinate a questo racconto in maniera diversa, con un'interazione diversa, cercando ognuno una possibilità nuova nell'esplorare il castello, perché questo qua, Ritorno al castello, ti mette di fronte a un personaggio inizialmente anonimo che visita un castello in mezzo apparentemente al nulla. Semplicemente sfogliando, andando avanti, il lettore può uscire dal racconto, finirla lì, andare dritto, oppure può appassionarsi. Perché quel castello è lì? Perché quel personaggio è lì? Cosa li lega? Cosa può succedere in quella situazione? Può diventare un'avventura? Sì. E allora qui è l'engagement, l'interazione. Un migliaio almeno di pagine interattive, Ritorno al castello ha tantissime immagini digitalizzate e riprodotte in maniera particolareggiata, perché alla fine si ispira alle vecchie avventure testuali, quindi ha un look un po' retro, dato dei bei riscontri nel corso del tempo, è rimasto quello più iconico nel vario catalogo di Swipe. Un'altra esperienza che non posso non citare è Sentimental, lo swebook prodotto dai ragazzi, scritto dai ragazzi dell'Accademia di alcuni studenti dell'Accademia di Reggio Calabria per il corso di scrittura creativa. Loro hanno creato il loro racconto e l'hanno offerto per questo swebook. Quindi hanno messo insieme immagine, racconto, sette personaggi che affrontano questo viaggio, e il lettore, in questo caso, lo hanno scelto in una maniera non interattiva, quindi il lettore sfoglia esattamente come un libro il racconto per seguire i personaggi nel loro progresso, nella loro esperienza umana. Infatti, alla fine, senza svelare nulla, però c'è un finale che aggancia, che ritorna verso il lettore, ed è molto particolare. Tendenze in questo campo sono praticamente infinite, c'è una grande voglia di interazione, una grande voglia di coinvolgere le persone. Azzardo a dire che il videogioco in generale, al di là del progetto Swybook, può essere il racconto 2.0 per eccellenza, può essere la nuova arte interattiva, il digitale può essere la nuova tela, la nuova scultura, perché permette una grande portabilità e una grande interazione. Quindi bisogna avere una visione più lungimirante e pensare a quando, ma già adesso, il digitale diventerà il comune, e quindi non avremo più nessuna remora a considerare il videogioco una bella storia, un bel film, come i bei film e le belle storie che ci hanno accompagnato nel corso del tempo. Io sfido anche un quarantenne che può essere in sala adesso a non sussultare al titolo di un videogioco che è stato per lui epocale. Può essere Monkey Island, può essere Zork, questi nomi che magari alcune persone non dicono nulla, però già in una certa fascia d'età dicono tantissimo e si legano ai ricordi, esattamente come un bel film, come un bel libro. La sfida è rendere Swybook ancora più competitivo, trovare anche investitori, trovare possibilità nuove, nuovi Swybook, nuovi autori, nuove collaborazioni, e in generale portare questa dimensione del digitale a confronto con il reale, creare ancora più accessibilità, ancora più interazione, fare in modo che tutti abbiano la possibilità di accedere alla cultura e alla condivisione delle informazioni. Mi emoziona pensare all'accessibilità che potrebbe avere questo nel mondo dell'educazione, la possibilità che uno swybook possa, perché no, condurre un messaggio educativo, possa essere un mezzo per raccontare e insegnare qualcosa ai ragazzi, e usare il lato interattivo per esercizi e questionari. Quindi avere un all-in-one, uno strumento unico che permette di fare tutto con la massima accessibilità. Fantastico. Noi celebriamo in queste giornate il Mediterraneo e la sua esperienza, e quindi mi piace Ancora immaginare il Mediterraneo come una nazione unica, dove differenza sia ricchezza e moneta di scambio e non un problema. Mi piace immaginare che tutte le storie che noi abbiamo condiviso e che il Mediterraneo costruisce possano trovare un'ulteriore dimensione propria, anche grazie al digitale, anche grazie a questi progetti del tutto innovativi. Questi sono i raccolti 2.0. Questo che deve facilitare il dialogo tra le persone e diminuire il gradino, le varie problematiche che fin qui abbiamo dovuto affrontare per la diffusione delle informazioni. È una sfida che possiamo vincere e ci dobbiamo lavorare grandemente.